Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Eccoli qua nel loro splendore, quando erano veramente bellissimi al punto da essere quasi inarrivabili, no? Erano gli Stones dei primissimi anni 70, la formazione con Mick Taylor, forse anche la più peccaminosa in un certo senso, quella che a un certo punto se n'era andata dalla Madre Terra, dal Regno Unito, per andare a cercare rifugio in Francia. C'erano questioni fiscali, tasse da pagare, e poi in un certo senso anche quella sensazione di essere, no, figli non propriamente prediletti per quei comportamenti, quelle condotte trasgressive, quell'essere da una parte, no, i beniamini, quelli che segnavano la strada ai giovani, ma dall'altra anche quelli invece segnati a dito come i possibili corruttori delle nuove generazioni. Rolling Stone è di questi giorni, ne avrete per forza sentito parlare, la notizia di questo ritorno in versione deluxe con aggiunte, rarità e quant'altro di Exile on Main Street, che è reputato soprattutto dai Rolling Stoneologi più seri e più concentrati come l'album perfetto, l'album del momento della maturità raggiunta da parte degli Stones, che torna in questa versione rimasterizzata con un sacco di rarità, insomma a tutti gli effetti da collezione, perché ridendo e scherzando sono passati 40 anni da quando questo disco è stato inciso, poco meno, del 71 ed è uscito nel 72, e la questione di cui vogliamo parlare in apertura oggi è proprio questa, ovvero il fatto che dopo aver lungamente, no, annunciato la morte del rock, i critici e gli osservatori di costume adesso stanno lentamente spostando il punto di osservazione. In un certo senso si dice che il rock sopravvive nonostante se stesso, per un paio di motivi, un po' perché ne sta cambiando l'hardware, no? Il rock è diverso da quello che siamo abituati a conoscere come tale, no? Ovvero la musica in formato di singoli e di album. Adesso per i ragazzini veri, quelli che hanno 15 anni, 16 anni, la musica è un'altra cosa, si produce in un altro modo, si fa diversamente, si veicola diversamente, però poi esiste contemporaneamente un altro piano del rock, che è quello di quelli che continuano a farlo proprio immarcescibili, come si diceva una volta, da mezzo secolo, tipo i Rolling Stone, e ancora ci sono, e ancora ci sono perché non sanno fare altro, perché lo fanno bene, perché guadagnano un sacco di soldi nel farlo, e perché ormai la loro vita in un certo senso è improntata a questo, no? La loro, il senso del loro passaggio, delle loro apparizioni pubbliche, del rapporto con quella sterminata audience che li ama, è proprio questo. E attorno ad argomenti del genere c'è una bella intervista di CNN, che è anche reperibile sul sito, di Larry King a Mick Jagger, due signori che Larry King sta abbondante sopra gli 80 e Mick Jagger sta dietro, ma non proprio di tantissimo, che parlano stranamente di rock, insomma un ottantenne e un quasi settantenne che parlano di rock. La realtà di oggi è questa, ma sentiamo un po'. How do you account for the longevity of the Stones as a success? I think the Stones are very lucky. Yeah, you always need a lot of luck. And I think they were in the right place at the right time. And we, you know, quite, when we work very hard. I tre motivi del successo degli Stones, chiede Larry King a Mick Jagger, e lui li elenca in modo molto chiaro, ce li ha ben chiari in mente. Dice: prima di tutto la fortuna. Se vuoi essere così longevo e essere così presente, così importante nella storia del rock, ma in genere nella storia dello show business, devi avere anche una certa dose di fortuna. Il secondo dato è il tempismo, essere nel posto giusto giusto al momento giusto, che è esattamente quello che i Rolling Stone a più riprese hanno saputo fare. Pensate ai grandi eventi del rock, pensate ai festival, pensate a certi suoni, a certi temi delle loro canzoni. Però c'è un terzo fattore che Mick Jagger mette in risalto con attenzione, da vecchio praticante, dice: e poi bisogna lavorare duro. Noi siamo di quelli che ancora lavoravano durissimo, volevamo mettere a punto, provare, perfezionare il nostro prodotto, abbiamo fatto una lunga gavetta, questo ci ha portato a poterlo tenere in vita ancora oggi. How about staying there though? It requires a certain, you know, tactics. It's like being a football player or something. You know, if you're going to last, you got to play, you know, a bit clever, you know, when you're young you can just... E insiste Larry King, ma c'è un metodo che puoi trasmettere, e da bravo inglese Mick Jagger fa un esempio calcistico, dice: è come se sei un calciatore, magari un calciatore di centrocampo, e vuoi durare a lungo. Cosa devi fare? Devi risparmiarti, devi saperti dosare, devi avere una strategia, devi in un certo senso far funzionare il cervello. Allora, negli anni 10 che noi qui, no, cantiamo, esaminiamo nel nostro programma, ci sono dei rocker settantenni, ma forse questo non è un controsenso come potrebbe sembrare in partenza, è semplicemente un prodotto dei tempi, no? E di un raggio di anagrafico che si va allargando, perché la cultura popolare in fondo anche lei comincia a diventare un po' vecchia. Anni 10. Parole. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near. The bells I hear. The people all exulting. While follow eyes the steady keel. Il suono, prima di tutto, il suono di queste parole. Oh, Captain, oh, Captain. Questo è uno di quegli strani arnesi che girano sulla rete, su YouTube, in cui con dei trucchetti, insomma, prendono una foto di un vecchio signore dell'Ottocento, la animano, cioè gli fanno in un certo senso muovere un po' la bocca e un po' le sopracciglia, e sembra che nella fattispecie il poeta in questione, che è Walt Whitman, reciti lui in prima persona la sua poesia. È un po' straniante, anche un po' straziante, però è anche un po' divertente. L'abbiamo tirato fuori prima di tutto per risentire ancora una volta quella invocazione: capitano, o capitano, no? La stessa che forse vi ricordate nella scena madre, nel finale di Dead Poet Society, no? Esclamano gli studenti rivolti al professore Robin Williams quando viene cacciato via con ignominia dopo aver insegnato loro però la strada della libertà. E era non a caso una citazione di Whitman, perché Whitman è considerato il poeta della libertà. E in questo spazio di anni 10 dedicato alle parole, ai libri, abbiamo oggi tre libri interessanti, e il primo che vogliamo segnalare è proprio questo nuovo ritorno editoriale su Whitman. Si chiama On Whitman, il libro in questione, la biografia in questione, firmata da C.K. Williams. Interessante perché, anziché ripercorrere ancora una volta la biografia, peraltro molto interessante, molto divertente, ricca, come forse saprete, di mille risvolti, anche piccanti, di un uomo, insomma, che ne ha fatte parecchie, qui si ragiona invece proprio, anche perché lo stesso Williams, lo stesso autore della biografia, è un poeta, si ragiona sulla forza della parola poetica di Whitman, e poi anche sul suo ruolo sociale. C'è un famoso aneddoto che circonda la vita di Whitman, ed è riguarda il giorno in cui il poeta passeggia per le strade di Washington e a un certo punto sente un rumore di carrozza alle sue spalle, si gira, si volta, sente anche una certa agitazione che lo circonda e vede passare una carrozza a bordo della quale c'è Abramo Lincoln. I due grandi uomini, due dei grandi uomini dell'America di quel momento, del centro, del cuore dell'Ottocento, il Lincoln fatto presidente e il grande poeta di Foglie d'erba, che si sfiorano in un certo senso, e racconta sempre la leggenda, Whitman, perché allora si poteva, non c'era mica il servizio di sicurezza, rivolge un educato cenno di saluto ad Abramo Lincoln, che, riconoscendo, perché poi Whitman insomma era come Gandalf, cioè il barbone, era uno che si vedeva, si riconosceva, capivi che era lui, Lincoln lo vede e replica, risponde educatamente a sua volta con un cenno del capo. Nella sua biografia Williams dice: peccato che quel incontro sia stato così, soltanto un reciproco segno di rispetto. Se due uomini forse si fossero seduti a parlare dei temi che li accomunavano, no? che avevano entrambi così cari, a cominciare dal patriottismo, a cominciare dalla libertà in tutte le sue diverse declinazioni, libertà di amare, libertà di essere di frequentare chi si vuole, di mescolare le razze, libertà di dare di se stesso agli altri la parte desiderata, forse la nazione delle nazioni, come la chiama lo stesso Whitman, ne avrebbe avuto da guadagnare. What is the unique character of the Castelli Gallery? The idea that's behind it of not only buying and selling paintings or having a stable of painters. Riconoscerete un inglese parlato un po' alla italiana, diciamo così, ed è giusto ed è corretto, perché questo signore che parla è Leo Castelli, nato a Trieste all'inizio del Novecento, è vissuto però buona parte della sua vita, ovvero dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, dalla minaccia nazista sul mondo, fino alla sua morte a New York. Chi è Leo Castelli? Leo Castelli è probabilmente il gallerista d'arte più famoso del mondo, della storia dell'arte moderna e contemporanea. Esce una sua approfondita biografia, accolta con grande sfarzo dalla stampa americana. Si chiama The Life of Leo Castelli, la vita di Leo Castelli, era già in circolazione peraltro in Francia precedentemente, è firmata da Annie Cohen Solal, pubblicata da Knopf in una edizione estremamente lussuosa, e si dedica a rappresentare in un modo assai generoso, assai complimentoso, la figura di quello che Tom Wolfe, nel suo celebre articolo del 1967, definì l'uomo continentale, che è una gran bella definizione per contrapporla all'uomo provinciale. In effetti Castelli aveva fatto molto per l'arte americana e per l'arte in genere, l'aveva sprovincializzata e soprattutto l'aveva insegnata agli americani in una percezione completamente diversa da quella che gli americani avevano avuto fino alla metà del Novecento, che era quella di un consumo in un certo senso al mittente, no? Da fare magari partendo per il Grand Tour europeo, per le visite dei grandi musei, per contemplare le meraviglie della vecchia Europa, oppure per acquistare, ma così in modo un po' mercantile, capolavori che venivano poi un po' accatastati nei musei. L'arte contemporanea invece entra dalla porta principale grazie a Leo Castelli, che sa scegliere, sa riconoscere Jasper Johns, sa riconoscere Robert Rauschenberg, sa riconoscere Frank Stella, Lichtenstein, Warhol, Judd, Cristo, Richard Serra, tutti i grandi nomi della fine del Novecento che transitano per la sua galleria, ricevono da lui il miglior trattamento possibile in quanto artisti, ovvero la garanzia di sopravvivenza, anzi di benessere consolidato, sia che le loro opere vendano o no. Tanti di loro sono in realtà a stipendio presso Leo Castelli per un lungo periodo della loro carriera, finché non volano con le proprie ali. E poi qui c'è anche la storia, la biografia di Castelli, invece italiano in America, musica, anzi italiano nel mondo, che viene mandato dal padre in Romania, sposa una ricca donna rumena, grazie a lei apre la sua prima galleria a Parigi e poi da Parigi riesce a fare il grande salto per l'America, tra l'altro una moglie con un cognome altrettanto importante, no? nel mondo delle gallerie internazionali, Sonnabend, quante volte l'avete sentita nominare insieme a, per esempio, a Castelli, di cui è stata per tanti anni la consorte. Una biografia, ripeto, generosa, ricca, che chiude in un certo senso quello che con la fine del Novecento è stato poi un cambio, uno scarto piuttosto secco anche nel mercato dell'arte, che da quel momento in poi si è globalizzato, è diventato una cosa diversa, una forma di investimento, ma anche una forma di rituale diverso, che a questo punto ha tutto il diritto di storicizzare figure come Leo Castelli. Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso. Su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc, toc, toc? Allora vuoi che soffi? Vuoi che faccio puff? Allora devo aprirla io la porta. Ecco, ve la volevamo far sentire fino alla prima accettata, perché forse l'avete riconosciuto, Fuori dalla porta, benché doppiato, era Jack Nicholson, un po' svegliatosi, un po' stranuccio, diciamo, quel giorno in quell'albergo, e dentro c'era la sua consorte, come dire, un po' turbata dal fatto che lui volesse entrare in bagno, perché poi è questo che Jack Nicholson voleva fare, avere accesso al bagno. E perché parliamo di tutto questo? Perché uno scrittore inglese, che è un cultore, anzi in un certo senso anche un po' un virtuoso del vivere sociale, che si chiama Bill Bryson, ha pubblicato un libro molto divertente intitolato At Home, A Short History of Private Life, ovvero A Casa, una breve storia della vita privata, della nostra vita, come dire, quella che, di cui non parliamo con gli altri, perché cosa gliene importa, per esempio, di come, dove, con quali tempi e sfarzo andiamo in bagno. Ecco, Bill Bryson si occupa nel suo libro di tutto ciò, ma non solo del bagno, si occupa anche di altre tematiche, tipo la presenza o no di scale all'interno di una casa, l'idea di mettere un prato attorno alla casa, tutte cose che ci sembrano banali, ma che poi invece hanno una storia, un inizio, un'origine, una ideazione. La parte più divertente del libro di Bryson è certamente quella dedicata al bagno, perché c'è tanto da imparare, addirittura sulla parola toilet, no? Che viene usata per contraddistinguere il bagno. La parola toilet ha una storia lunga, pagine e pagine, nasce come un asciugamanino fino ad arrivare alla formidabile ideazione del water closet, che a sua volta è una macchina delle macchine, con inventori, alcuni dei quali peraltro falliscono nell'invenzione stessa, con risultati devastanti. Tutto questo Bryson, come in tanti altri suoi titoli, descrive con grande capacità. Vi ricordo il titolo del libro, è Tom, una breve storia della vita privata. They run from us, so we the dangerous. There's a war on the streets, he has to fix me, dance or die. Anni 10. Suoni. Every call, suoni, insomma, vi ripeto ancora una volta qual è la missione di Anni 10: segnalarvi, guardando in giro per vostro conto, delle cose che magari non saltano all'occhio subito dalle proposte, no, del grande minestrone dei consumi, e che invece magari vale la pena di tenere d'occhio, di capire, oppure personaggi da studiare, cose da leggere o sentire, nella fattispecie personaggi da studiare, conoscere e da sentire tutti insieme, perché vi parliamo di una piccola rivelazione che improvvisamente ci è apparsa sotto lo sguardo e l'abbiamo, era difficile non accorgersene. Dunque, il personaggio in questione, che ascoltate ancora in sottofondo e avete sentito anche poco fa, si chiama Janelle Monáe, e Monáe però non scritto come i quattrini Monáe, ma scritto M-O-N-A-E, quindi una diversa grafia, e titolare di un album, un vero album di debutto, che si chiama The Arch Android, che segue un extended play, ovvero un disco con alcuni brani che era uscito qualche tempo fa, intitolato Metropolis. E Metropolis c'entra perché questa giovane artista originaria di Kansas City, proprio all'immaginario classico, quello di Fritz Lang, no? Di Metropolis, della visione della città futuribile, dedica il concetto attorno al quale organizza, tematizza la sua musica. Ma qui c'è qualcosa di più che volevamo sottolineare e sottoporvi, perché siamo veramente a uno stadio post della black music. Secondo noi è nata in scala ridotta per adesso una piccola nuova incarnazione di Prince, naturalmente al femminile. Questa Janelle a noi ricorda proprio il Prince degli inizi, per la sua capacità di mettere insieme tante cose, di mettere insieme rhythm and blues, hip hop, psichedelia, soul music, ma anche tanta teatralizzazione della musica, esattamente come piaceva a Prince agli inizi. Tutto ciò sotto l'attento sguardo produttivo e la grande esperienza produttiva di Big Boy, che è uno degli Outcast, cioè personaggi della musica nera che la sanno veramente lunga su come arrivare al mercato, e poi con una veste sonora stranissima, perché questo album, questo Arch Android, è a tutti gli effetti una specie di spettacolo. Comincia con una overture, è suddiviso in suite, c'ha delle larghe porzioni orchestrali all'interno, quasi dei momenti di relax, e poi invece parte il beat, si muovono anche, no, le emozioni più danzerecce di questo disco, che diventa improvvisamente funk, anche se molto eclettico. È un debutto di qualità eccezionale, vedrete che nel giro di poche settimane ne sentirete parlare dappertutto. Tra l'altro, e questo non guasta affatto, Janelle Monáe è anche di straordinaria bellezza e poi ha un gusto tutto suo, e anche qui si può riparlare, riguardare un po' a Prince. Gli piace mascherarsi in tanti modi diversi, no? È molto creativa anche nei look con i quali si presenta, a cominciare quello tipicamente Metropolis, con il quale appare sulla copertina di questo Arch Android, e a questo punto ne sentiamo un altro brano, Wonderland. Yeah. Ma sentite, ci sono anche inflessioni asiatiche, anche qualcosa di sinfonico ricorre in questo stranissimo disco, davvero, davvero una novità ragguardevole. Vi ricordo ancora il titolo, si chiama The Arch Android, lei è Janelle Monáe e ne sentiremo parlare assai spesso, magari la risentiremo anche qui ad anni 10, dove è ben accolto finalmente qualcosa, no? Che arriva dal presente, magari con anche un piccolo accenno di futuro, perché poi invece in questi anni 10, come dicevamo in apertura, citando, anzi ascoltando Mick Jagger e parlando di Rolling Stone, quello che si fa con inquietante frequenza è celebrare cose già accadute, cose che non riescono più ad accadere con la stessa intensità e che quindi ci tornano su, ci si torna con nostalgia, con desiderio, con anche una certa malinconia. È tutto quello che in questi giorni sta circondando un anniversario, l'anniversario della morte di Ian Curtis, che per chi adesso ha attorno a 40 anni, hanno più, hanno meno, è stato un grande personaggio della musica e anche della propria crescita, no? Uno di quelli che hanno funzionato veramente da catalizzatori, era il cantante dei Joy Division, era il titolare dell'album forse amato, più amato nei primi anni 80, che si chiamava Unknown Pleasure, era in un certo senso il personaggio simbolo di tutta quella depressione letteraria, ma anche poi ritmica, no? La depressione che diventava uno stile di ballo, cose strane che capitavano all'attacco degli anni 80, dopo il punk e prima che poi la grande onda dell'edonismo prendesse forma. C'è un sacco di produzione articolistica al riguardo, ci sono dischi, ristampe, commemorazioni. Sentiamo un attimo Joy Division. Voce di Ian Curtis, ed è strano, no? Che in fondo una musica così semplice, così minimale, così rozza anche abbia influenzato così tanto tante persone in giro per il mondo. C'è un bellissimo articolo sul Guardian di un coetaneo di Ian Curtis che è tornato sui luoghi, è andato alla stessa scuola dove ha studiato Ian, è tornato nella stessa aula, sugli stessi banchi, racconta questa tremenda onda di nostalgia che lo ha avvolto, perché secondo lui quello era un modo di crescere di cui adesso non c'è più traccia, però ci sono, come dicevamo, tanti reperti, è pieno il mercato in questo momento di memorabilia che riguardano i Joy Division. E arriviamo all'ultimo angoletto musicale, divertente, anche questo lanciato in orbita dal Guardian. C'è un cambio politico deciso nella governance, no, del Regno Unito, e allora per adeguarsi il Guardian, che è un giornale progressista di sinistra, ha cominciato a mettere in classifica quelli che a tutti gli effetti possono essere considerati i rocker di destra. Pensate che al decimo posto c'è proprio Ian Curtis, che aveva dichiarato nel 79 di aver votato conservatore, no? Nonostante le sue radici operaie. Dunque, i 10 rocker buoni per una Inghilterra che guarda a destra, descritti dal Guardian, anche con una certa malignità. Uno lo sentite sotto, secondo me l'avete già riconosciuto, assai noto in Italia, ma è al quarto posto. Quindi ci arriviamo, perché al nono posto c'è Phil Collins, Collins, che a un certo punto aveva anche tentato una improbabile carriera politica. All'ottavo posto c'è Johnny Ramone, buonanima Johnny Ramone, repubblicano dichiarato. Al settimo posto c'è Kid Rock, un altro che non ha mai nascosto di aver dato il proprio voto a George W. Bush. Al sesto posto c'è Jerry Halliwell, che ha sempre detto che le Spice Girl erano thatcheriane convinte fino al midollo. Al quinto posto c'è 50 Cent, che, pensate un po', un giorno si è incontrato con George W. Bush, un incontro tra i più improbabili, e ha detto: sapete ragazzi, quello lì è veramente molto gangsta, e quindi ha confermato la sua simpatia per Bush. Al quarto posto c'è il nostro amico Eric Clapton, che forse ricorderete, ci furono altro che destra, estrema destra si diceva un tempo, no? Quando lui si espresse in favore di Enoch Powell, dei razzisti britannici, poi corresse un po' il tiro. Al terzo posto c'è un altro che è veramente un conservatore a dir poco, secondo me è dalle parti dei Tea Party, uno che non gira mai senza la sua calibro 45, che racconta le sue canzoni, è più grossa della sua chitarra. Ed è questo matto qua sotto, ovvero Ted Nugent, celebrato cantore dell'individualismo americano difeso a colpi di fucile. Al secondo posto invece bisogna tornare da questa parte dell'oceano. In Gran Bretagna c'è sempre stato un vero elegante, posato, conservatore di quelli che piacciono a mamma. Il tessuto della nostra società è rovinato, ha appena dichiarato Tony Hadley degli Spandau Ballet. Abbiamo bisogno di Cameron, e che Cameron si comporti un po' tipo Thatcher, perché quando è troppo, è troppo. Poi ce lo vediamo, no? Cameron che festeggia il suo successo elettorale ballando languidamente con la sua signora al suono degli Spandau Ballet. Infine, al primo posto, il conservatore dei conservatori. Per favore, parta, come dire, parta la base. Eccolo qua, insomma, l'incontro con Richard Nixon resta uno dei momenti della storia americana fine Novecento più pittoreschi, ma anche più significativi. Il re Elvis. Thank you. Thank you. You're fantastic. Thank you very much. Yeah. Anni 10. Figure. Salve, sono Kurt Hummel e canto Mr. Cellophane da Chicago. Questo era il sorprendente, diciamo così, pilota di Glee, no? quel seriale americano che poi è diventato il vero caso della stagione in America, e devo dire anche abbastanza in Italia. Se ne parla moltissimo in questi giorni sulla stampa americana, perché stanno uscendo le anticipazioni dei palinsesti della prossima alta stagione televisiva americana a partire da settembre-ottobre, e ci si rende conto che l'effetto Glee sta diventando come dire, sensibile, no? sui palinsesti. Questa idea partorita dagli autori di Glee ha fatto effetto. L'idea poi alla fin fine qual è? È quella che è venuta fuori in Glee dopo un po', no? Perché Glee parte un po' come un Saranno famosi, no? I ragazzini, la scuola, il maestro che decide di mettere insieme la band, molto in odore di Fame, no? Questi che cantano tutti benissimo, ma poi ciascuno ha una sua vicenda privata più o meno problematica, con i risvolti e interazioni tra i personaggi. Poi arriva la grande idea. La grande idea è quella di mettere dentro Glee un personaggio vero. Si comincia con Madonna, poi da lì in poi si apre un filone senza fine. Perché? Che succede? Che attraverso le reinterpretazioni prodotte dai New Directions, no? I ragazzi di Glee, può succedere che la verità, la musica, lo show business vero, e quindi le star in carne ed ossa, possono entrare a far parte del cast. Ed è di questi giorni l'uscita di un album cantato interamente dagli interpreti di Glee, appunto in New Direction, dedicato alle canzoni di Madonna, a cui è stato dedicato anche un intero episodio della serie. Ed è di queste ore anche la notizia che Britney Spears abbia detto chiaro e tondo che, visto che tutto le va male, dagli affari familiari alle vendite dei dischi, al fatto che ha mollato, no, a Lady Gaga a Telephone, il brano che sentiremo fino alla morte quest'estate, allora ha deciso anche lei di entrare a far parte, almeno per una puntata, di Glee, e di essere, in un certo senso, nascerà quindi il Glee Britney Spears, e di qua in avanti si potrebbe anche non finire. Però questa fusione tra una fiction che a sua volta aveva, no, degli spin-off, perché poi Glee va in tournée come spettacolo teatrale, come musical, ci sono i dischi, e addirittura gli artisti veri e propri che entrano dentro Glee, in un certo senso restituiscono la realtà a Glee, ci sembra forse già lo step successivo che ci fa sembrare i reality show, le isole e dintorni, no, come un passato già che si allontana. So how do you bridge the two for kids? You say don't do it, don't have the sex, but you did. So how do you put those two together? I'm not quite sure. I just want to go out there and just promote abstinence and just say this is the safest choice, this is the choice. Insomma, questa signorina si chiama Bristol Palin ed è la figlia di Sarah Palin ed ha semplicemente 19 anni di età, ma nella nostra sezione figure ci sembra notevole, degna di nota, perché prima di tutto ci insegna che negli Stati Uniti le figure si possono vendere in tanti modi diversi, non solo in televisione, non solo in session fotografiche, ma per esempio anche come conferenzieri, no? Voi avete una storia interessante da raccontare, qualsiasi storia, avete salvato un aereo da precipitare nel fiume Hudson, oppure siete la figlia di una candidata perdente peraltro alla Casa Bianca, che nel frattempo ha fatto un figlio con uno che poi è diventato un cover boy di giornali porno per uomini, benissimo, avete una storia da raccontare. Se avete una storia da raccontare, vi pagheranno. Questa è la sostanza della questione. Dunque Bristol Palin è entrata con grande successo nel circuito dei conferenzieri. Un suo intervento a una seratina, che sia una università, che sia un circolo culturale, che sia un country club, quello che vi pare, costa dai 15 ai 30 mila dollari, che in fondo non è neanche tantissimo, no? Per quei circoli ricchi, canottieri Atlanta, no? I canottieri Atlanta chiamano Bristol Palin, che va lì e fa la sua chiacchierata, in cui racconta la sua triste storia, che a soli 19 anni ha avuto una bambina, e esprime la propria testimonianza in favore dell'astinenza, perché poi lei è questo che vende, un discorso in favore dell'astinenza sessuale, che poi alla fin fine noi lo abbiamo sentito, perché ce n'è un sample, ce n'è un campione in rete. Consiste nel dire: guardate che per una sola notte di piacere, sottintende, ma lei non lo dice, per l'errore commesso in una notte, poi vi ritrovate così. E c'è lei che tira fuori il pannolino, spiega che si sveglia alle 5 di mattina perché quel rompiscato dei film, si può parlare così del proprio figlio, sia pure a 19 anni, comunque la sveglia ed è diventata, e quindi conclude dicendo quindi pensateci bene due volte, poi pensateci un'altra volta e praticate l'astinenza. Siccome il pubblico della Canottieri Atlanta ha in media 60 anni, no, tutti invidiosi e gelosi dei ragazzotti di come si divertono, un applauso e $30,000. Well, I didn't play this season, wondering about what I was going to do in the off season. I approached every game, every practice, every day like it was my last. I just want to try to continue to get better as a leader and as a player. Ma a me, guarda, basta sentire questa voce, poi io qui vorrei andare avanti per un'ora o due per esprimere commenti personali che temo non siano esattamente in testa ai vostri interessi. Comunque, il signore, possiamo ascoltarlo ancora un momento? Il signore in sottofondo è lo sconfitto del momento, è l'uomo che come dire, ha lasciato sul terreno la più cocente delusione. Eccolo qua. Wondering about what I was going to do in the off season. I approached every game, every practice, every day like it was my lo so, ma ha ragione. È LeBron James. Chi si interessa di pallacanestro americano sa, ma anche chi non se ne interessa ormai ha capito che è lo sportivo probabilmente più famoso del pianeta in questo momento, il più pagato, il più forte, divertente. Giocatore di pallacanestro ha perso la possibilità di vincere il titolo con i suoi Cleveland Cavaliers, cacciati fuori dai veterani molto, molto tosti di Boston, e ha fatto una conferenza stampa che è diventato un successo di audience eccezionale, quella che sentivate appunto poco fa sui canali americani. Per dire che cosa? Per dire ciao Cleveland, io sì è vero sono nato a pochi chilometri da qua a Akron, peraltro un posto infernale dove fanno pneumatici, una puzza di gomma bruciata che non vi dico, ho una villa che sembra il castello di Biancaneve qua nei sobborghi e mi dispiace, io devo lasciare Cleveland perché devo vincere un titolo nella vita, sono insomma l'interprete dei desideri dei giovani, si identificano, vado a New York e questa la notizia, altro che Mourinho. Noi stiamo dietro a Mourinho e Real Madrid, gli americani stanno dietro a LeBron James che molla Cleveland per andare a New York. La notizia qual è? La notizia è che da qualche giorno i newyorkesi non lo vogliono più. C'è stato come dire, una tavola rotonda, un segreto accordo tra i media newyorkesi che hanno capito che per svoltare l'estate che si avvicina da un punto di vista mediatico c'era un'idea molto semplice, dire no a LeBron James. Dicendo no a LeBron James partiva quella tipica guerra culturale da Starbucks, da caffè della mattina, da pausa dell'ufficio, con cui riempire le pagine e i talk show per settimane e settimane. La teoria di fondo è sempre la stessa, arriva un perdente, arriva un narcisista, arriva uno che guadagna troppo, non vinceremo neanche con lui, si porta dietro un fardello di sconfitte. Poi invece ci sono quelli che dicono no, soprattutto i turisti italiani come noi che dicono no, vogliamo LeBron James a New York, così lo vediamo anche noi e ci divertiamo. Morale della favola, il 3 ottobre se LeBron James firmerà per la squadra di New York è già confermato che sarà debutterà, pensate un po', a Milano, no? Ci sarà la venuta dei Knickerbockers a Milano insieme a Danilo Gallinari, sarà a Milano la sua prima partita e saremo i primi a dire se LeBron James funziona oppure no. Your job is success on the line. Your wife that mean your kids all crying. You need something that's guaranteed to please, man. But listen, I tell you. Insomma, torniamo dove siamo partiti, a questa riuscita, a questa riedizione di Exile on Main Street. Quello che sentite in sottofondo è uno degli inediti, sono 10, quindi motivano il ritorno di interesse per quest'album di 40 anni fa dei Rolling Stone. Questo si chiama Pass the Wine, Sophia Loren. Passa il vino, Sophia Loren, può bastare già il titolo per incuriosirci, bene o male. Questi avranno 70 anni, come dicevamo in apertura, ma siamo ancora tutti qui a celebrarne le gesta. Siamo qui a Anni 10, il settimanale, no, che cerca per voi tracce di consumi culturali interessanti, magari un po' sepolti. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini. Abbiamo un profilo Facebook che si chiama Anni 10 Radio 24, oppure semplicemente Anni 10, dove trovate tra l'altro i titoli per risalire ai prodotti che vi abbiamo presentato. Certe volte le pronunce sono improprie, oppure i titoli sono complicati, li trovate tutti lì. Abbiamo una mail, anni10@radio24.it, per parlare con noi. Un appuntamento tra una settimana. State, ragazzi, tutti bene.